24. La storia. Se la vita era fatta così, è monotona, non ha più interesse. Invece gli alti e bassi le danno adrenalina, le danno voglia di riprendersi, le danno voglia di ricominciare da capo. La sua carriera è stata come un'onda, ha fatto su, giù. C'è sempre questa soddisfazione per lui di essere recognized così. In America lo chiamano solo Dino e basta. Non è che tutti gli anni c'è un Thalberg. Nessuno più di lui meritava questo premio. La migliore scuola di cinema del mondo sarebbe quella in cui un ragazzo giovane potesse stare accanto a Dino De Laurentiis e imparare da lui. Il 10 novembre del 2010, a 91 anni, muore Dino De Laurentiis, produttore di fama internazionale, uno dei protagonisti del cinema mondiale. Solo pochi anni prima, il 25 marzo del 2001, con il premio Irving Thalberg, il massimo riconoscimento del cinema americano, tutta Hollywood si era inchinata al talento, all'estro, alla straordinaria carriera di De Laurentiis. Nato a Torre Annunziata l'8 agosto del 19, innamorato sin da ragazzo del grande schermo, il suo è sempre stato un cinema in grande. Da capolavori come Riso Amaro, La Strada, Le Notti di Cabiri, La Grande Guerra, Una Vita Difficile, a titoli popolarissimi come Guardie e Ladri, Un Americano a Roma, Guerra e Pace, La Bibbia. Poi negli anni 70 l'arrivo a Hollywood e il trionfo negli Stati Uniti, I Tre Giorni del Condor, Serpico, King Kong, Conan il Barbaro, L'Anno del Dragone, fino alla saga di Hannibal the Cannibal. Dino De Laurentiis è un artigiano dell'industria dei sogni che conosce alla perfezione e segue con scrupolo in ogni singolo aspetto della realizzazione di un film. La sua stessa vita sembra un film, il suo lungo amore con Silvana Mangano e poi una nuova giovinezza con la seconda moglie Marta. E poi da un lato i trionfi del botteghino, dall'altro le tragedie familiari come la morte dell'unico figlio maschio, Federico. Quello che vogliamo raccontare oggi a Mix24 è l'incredibile film della vita di Dino De Laurentiis, attraverso la voce delle persone che l'hanno accompagnato nella sua storia, ma soprattutto attraverso la sua stessa voce, in una lunga intervista raccolta in occasione del suo 90° compleanno, un anno prima della scomparsa. Con De Laurentiis bisognava battagliare, parlare, poi dico, era uno che aveva le sue idee, parlava e non diceva mica delle stupidaggini. Spesso non si era d'accordo per altre ragioni, perché ognuno aveva un'idea diversa. Lui era più che presente sul set, era naturalmente il decisionista del film da fare. Mi piace questa storia, facciamola. Prendo questi scrittori, questo regista, questi attori e facciamola. Erano le voci di due uomini importanti nella storia del cinema e del lavoro di De Laurentiis, Mario Monicelli e Luciano Vincenzoni, regista e sceneggiatore di numerosi film prodotti da Dino, a partire dalla Grande Guerra, una commedia drammatica del 1959 sul primo conflitto mondiale, scritta su soggetto appunto di Vincenzoni, Monicelli e Scarpelli. Quando ho visto Orizzonti di Gloria di Stanley Kubrick, ho capito che era il momento di scrivere un soggetto sulla Grande Guerra che smitizzasse quell'aria trionfalistica di gloria. È stata una guerra ignobile. Ma guarda che noi vogliamo dire che di grande, di nobilmente grande, poi non aveva granché. Prepararono il primo copione, che era straordinario, e io disse diamogli un tono umoristico. Mettiamo attore come sono di Gasman e chiamiamolo La Grande Guerra, il titolo lo inventai io. Con due attori come Alberto Sordi e Vittorio Gasman, con la colonna sonora di Nino Rota e la regia di Monicelli, il film ha tutte le carte in regola per diventare un successo. Presentato al Festival di Venezia nel settembre del 1959, vince il Leone d'Oro ed entra tra i grandi capolavori del cinema italiano. Racconto tra il drammatico e il comico della vita in trincea dei soldati italiani, il film propone un cambiamento di valutazione dell'episodio della Grande Guerra, liberandolo dalla retorica che lo aveva accompagnato da sempre. Era diventata una cosa in cui se ne parlava soltanto levandosi il cappello e dicendo tutti erano degli eroi, tutti andati là. E cioè noi facevamo il film che voi avete visto, che era tutto il contrario. Quando si venne a sapere sui giornali ci fu la rivolta della stampa, invitando il governo a non permettere che questo film fosse fatto. Perfino un uomo intelligente come era Marotta, che era un grande scrittore e critico, fece su, mi pare, Europeo, due pagine, col titolo era Dino, non lo fare. Erano gli italiani erano matti. Forza, ci siamo. Ma che fai, oh? Prima spari e poi dici chi va là! È sempre meglio un amico morto che un nemico vivo! Chi siete? Siamo l'anima dei mortacci tua! E allora passate! No, ma... I giornalisti erano in certa discopo e pensavano che la Grande Guerra con Sordi e Gassman e non con due attori drammatici potesse essere un film da prendere in giro all'armata. Lì ci fu un uomo molto intelligente che capì che il film era positivo per l'armata, e fu Andreotti. Andreotti non solo capì che il film era positivo, ma ci diede l'armata di aiutare a fare le grandi scene di massa della Grande Guerra. Fu un grande successo, che manca il Leone d'Oro a Venezia, è un film che fu nominato anche qui all'Oscar. Dunque una vita fatta di grandi successi, quella di Dino De Laurentiis, ma da dove parte la sua storia? Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Dino De Laurentiis inizia a lavorare da giovanissimo nel pastificio del padre a Torre Annunziata. Portavo dei campioni e cercavo di convincere. Io allora avevo 14 anni, però sembravo qualche anno in più. Il fatto di avere 14 anni doveva essere un fatto negativo, invece risultò positivo. E la gente mi prese in simpatia, che a 14 anni io viaggiavo per conto di mio padre a vendere gli spaghetti. Un giorno a Roma io vidi attaccato al muro un manifesto del centro sperimentale dove spiegava chi vuol fare, diventare attore, regista o fa parte del mondo del cinema. Il cinema è sempre stata la sua passione e quella locandina lo incuriosisce. Andavo tutte le sere a vedere un film o due anche, e a quell'epoca, a quell'età, senza esperienza, io pensavo che il cinema fossero gli attori. Non immaginavo cosa ci fosse dietro la macchina da presa. Dino allora va a Roma e si presenta ad un provino come attore. Mi dice su una sedia, dice fai finta di essere in barca, di avere davanti a te una ragazza, una specie di storia d'amore, inventai delle battute lì per lì. Il provino va bene, Dino è un attore distinto, un attore nato, ma una volta superato il provino bisognava raccontare tutto alla famiglia. Il ricordo di quel momento nelle parole dello stesso Dino e di suo nipote Aurelio De Laurentiis. Dopo un po' ricevetti una lettera che ero ammesso al centro sperimentale e qui cominciò il problema. Una sera a tavola io ne parlai con mia madre prima e mia madre disse: io non voglio saperne niente, parlo con tuo padre. E a un certo momento disse: papà, devo parlarti, parla. Ci fu un silenzio totale nella sala da pranzo e io dissi a mio padre: senti papà, io vorrei fare l'attore. E mio nonno, che era una persona molto aperta, gli disse: guarda, io ti mantengo per un anno a Roma, ma sia ben chiaro che se fallisci tu ritorni qui. Abbracciai mio padre, gli applausi di tutti i fratelli e il giorno dopo partì per Roma l'avventura. Dino De Laurentiis mette allora piede a Cinecittà, siamo nel 39 e nel regno del cinema italiano stanno girando un film di Mario Camerini. Dino, faccia pulita, piccolo di statura, piace al regista che lo scrittura per una scena di Batticuore, dove Dino è un lift boy. Quell'episodio è l'inizio di una brillante carriera. Così Dino De Laurentiis e lo scenografo Luciano Vincenzoni raccontano quel giorno e quell'incontro col regista Camerini. Domani vieni con le scarpe nere. Io da meridionale avevo tutte scarpe marrone, gialle. Non avevo scarpe nere, non sapevo come fare. E tornando a casa passando davanti a un negozio di scarpe, vidi al centro della vetrina un paio di scarpe nere. Dice: queste sono le scarpe di cui ho bisogno. Entrai, le misurai, mi andavano bene. Sì, dicendo: guardate, non ho soldi, vi lascio questo, questa è la mia carta d'identità, c'ho una parte, domani mattina mi pagano, vengo, vi pago e riscatto. E lui un po' titubante, un po' incazzato, un po' così, mi disse: vabbè, prendi le scarpe. Ho fatto uno sbaglio, ma prendi le scarpe. 10 anni dopo, quando io avevo già uno studio alla Vasca Navale, un giorno la mia segretaria venne a chiamarmi e a dire: c'è un signore vecchio che non vuole andarsene via e insiste per parlare solo con lei. Vado a entrare. Lui entrò e mi disse: mi riconosce? No. Dice: io sono il proprietario della calzatorificio che ti fece credito e ti prestò le scarpe e ti diede un aiuto. Adesso io sono fallito, ho bisogno di lavoro, mi devi aiutare. Io chiamai la mia segretaria e disse: dagli il posto di magazziniere, e lo mise a lavorare. Questo è per chiudere la storia di come ho iniziato. Inizia allora la lunga e prestigiosa avventura da produttore di Dino De Laurentiis. Dopo le primissime produzioni nel 1949 arriva il grande successo, Riso Amaro, con la regia di Giuseppe De Santis. Un film che segna anche il grande incontro della sua vita. A raccontarlo è lo stesso Dino, poi Alessandra Levantesi, critico cinematografico, e Raffaella, la figlia di Dino. Io per principio, come produttore in tutta la mia vita, non ho mai avuto dei rapporti sessuali o sentimentali con le attrici dei miei film. Un giorno, stando a Via Veneto, io e Peppino De Santis, vedemmo sul muro un manifesto elettorale della Democrazia Cristiana con la faccia della Silvana Mangano, che non conoscevamo. Peppi, io dico: De Santis, questa mi sembra la ragazza per noi, dobbiamo provarla, fagli un provino. E lui fu d'accordo, la chiamamma, lei inizialmente si rifiutò di fare il provino, poi accettò di fare il provino. E quando insieme all'ingegner Gatti e all'avvocato Corino vedemmo il provino, e dicemmo: questa è una star, esce fuori dallo schermo. E così nacque Silvana Mangano, che poi divenne mia moglie. Sul set di Riso Amaro, Silvana Mangano, si trova questo produttore che per tutto il tempo della lavorazione le fa una corte discretissima. Qui durante il film ci fu un rapporto semplice fra produttore e attrice. E alla fine della lavorazione le chiede di fare il viaggio verso Roma con lui e di fermarsi qualche giorno a Torino. E tornando a Roma in macchina insieme, e da lì nacque il nostro rapporto, ma fin finito. Fretta e furia, le clandestine incominciano ad andare. Certo, Silvana avrebbe potuto dire no, ma certamente si convinse a dirmi sì, e ci sposammo. Lui era innamorato di questa donna bellissima, sono stati sposati per tanti anni, hanno fatto 4 figli. Io ho avuto un'infanzia bellissima. Certo, tutti mi chiedono com'era essere la figlia di Dino e di Silvana, però io non conoscevo un'altra famiglia, per me quella era l'unica famiglia, per cui per me era normale. Papà era il capofamiglia, tornava al lunch tutti i giorni, quando c'era qualche cosa grave che avevano fatto i bambini, mamma informava papà. Mamma lavorava, però non lavorava tanto spesso. Lei era inglese, severa, però simpatica. E io avevo un ottimo rapporto anche con mia mamma. Silvana era una donna che non amava la pubblicità, non amava stare sulle copertine dei giornali. Rifiutava sempre di farsi fotografare, preferiva stare con se stessa. Silvana Mangano, protagonista di Riso Amaro, è una donna molto affascinante e misteriosa, e il suo rapporto con Dino non è facile. Così lo ricordano gli sceneggiatori Vincenzoni e Scarpelli e poi ancora la figlia Raffaella. Lei aveva un carattere molto rude, lo trattava male. Pensi che lei non l'ha mai chiamato Dino, neanche davanti ai suoi collaboratori. Lo chiamava De Laurentiis. Una donna anche molto difficile. Se uno si permetteva di parlare male di Dino, in assenza di Dino, davanti a Silvana, lei gli cavava gli occhi. Però Dino era totalmente tenero, totalmente preso, totalmente innamorato e rispettosissimo della forte personalità di Silvana Mangano. Era una donna umile e semplice, e infatti lei inizialmente non voleva fare l'attrice, e ogni volta che gli chiedeva di fare un film era un problema a convincerlo. Era anche convinta di non essere capace di recitare, però un po' una volta si convinse, e i grandi registi la convinsero che lei poteva fare quello che poi ha fatto. Io mi ricordo tutti i mercoledì sera loro, papà e mamma, facevano una cena, era tradizione, e c'erano sempre Monicelli, Vincenzoni, Sordi, tanti di questi amici che per noi erano tutti zii, zie, però noi eravamo piccoli, non ci rendevamo conto, per noi era normale. Nel mondo dello spettacolo della Roma di quegli anni, attori, registi, produttori si conoscono tutti, condividono giornate ed esperienze e i loro figli si trovano a crescere insieme. Monicelli, De Laurentiis e Vincenzoni ci descrivono quel clima. Nel dopoguerra era un collettivo di ragazzi, di giovani che volevano fare cinema, che avevano delle idee per fare cinema e quindi scrivevano per il cinema, facevano i registi, facevano gli assistenti. Qualcuno faceva l'attore, eravamo una comunità di 50-60 persone. C'era un gruppo di pionieri, tra i quali facevo parte io, Rossellini, De Sica, Amidea, Fellini, Lattuate ed altro, che pur non avendo mezzi tecnici, non avendo possibilità di lavorare, volevamo fare del cinema per far rinascere il film. Era un mondo stupendo perché esistevano dei produttori che non esistono più, che pigliavano dei rischi, gli piaceva una storia, la compravano, finanziavano una sceneggiatura, trovavano il regista, facevano il progetto. E a un certo punto per De Laurentiis arriva il grande incontro professionale con Federico Fellini. Dino fa il salto e diventa un produttore di livello internazionale. Fellini è stato un rapporto di odio e d'amore, ma soprattutto d'amore, grande amicizia. Io fui l'unico che capì la strada. Prova a dire, è arrivato Zampano. È arrivato Zampano. Per 2 anni consecutivi la coppia De Laurentiis e Fellini vince l'Oscar come miglior film straniero, con La strada nel 1956 e con Le notti di Cabiria nel 1957. Mix 24, la storia. A Roma, sulla via Pontina, viene posta la prima pietra per la costruzione del centro cinematografico Dino De Laurentiis. Si tratta di uno stabilimento di produzione a ciclo completo, il primo del genere costruito nel mondo. Il presidente del Consiglio, onorevole Fanfani, partecipa alla cerimonia circondato da numerose personalità del mondo politico e cinematografico. Bentornati a Mix 24. Stiamo raccontando la storia del grande produttore Dino De Laurentiis. Negli anni 60 nasce Dino Città, un centro dove è possibile produrre qualsiasi film senza che la pellicola debba mai lasciare lo stabilimento. Teatri di posa, reparti per lo sviluppo della stampa, sale per il doppiaggio, il montaggio, il missaggio, stabilimenti per la fabbricazione di scenografie, materiale di arredamento e costumi, uffici stampa, uffici per il noleggio, la distribuzione e la vendita all'estero dei film. Il cinema italiano lascia definitivamente la fase artigianale per trasformarsi in una grande industria. E il protagonista di tutto questo è ancora lui, Dino De Laurentiis, che realizza il suo sogno di fare l'America in Italia. Ma io costruì il stabilimento quando capì che facendo quelle pace, facendo Waterloo, facendo i grandi film internazionali, l'Italia aveva bisogno di uno stabilimento moderno. E costruì questo stabilimento. Mio padre andò negli Stati Uniti a visitare tutti gli studi di Hollywood, ritornò e con un cantiere dove c'erano 5.000 operai, 40 ingegneri. Gli stabilimenti erano molto belli, molto efficienti, moderni per l'epoca. In questi 100 ettari dove piano piano nascevano questi colossi e dove poi piano piano sono arrivati John Huston per la Bibbia. Non abbiate paura, il Signore ha parlato e ha detto di portare nell'arca due animali di ogni specie perché sopravvivano. Come ti senti, Dino, stasera? Questa sera mi sento un pochino particolarmente emozionato, il che è abbastanza logico, dopo 5 anni di lavoro. Una prima mondiale, così, con un ambiente particolarmente di tecnici, di competenti, di stampa. E beh sì, oramai devo lasciare solamente la parola pubblica. Noi facciamo il cinema su una legge di Andreotti, che è un uomo estremamente intelligente, in cui la legge era molto chiara e semplice. Diceva, un film è considerato di nazionalità italiana si ha il 50% di elementi tecnico-artistici italiani e il 50% può essere straniero. Invece arrivò la legge Corona, una legge stupida, che disse chiaramente il film è considerato italiano se ci sono solo e tutti italiani. E quando arrivò la legge Corona disse che ci faccio qui in Italia? Non so più lavorare, me ne vado. E a 55 anni Dino De Laurentiis, senza parlare una parola d'inglese, porta tutta la famiglia in America e nel giro di pochissimi mesi ricomincia a fare il produttore. Il primo impatto a New York, il sindaco mi ricevette e mi diede subito le chiavi simboliche di New York. Però io quando venni in America, sì, venni tutto in allegria e tutto pieno di entusiasmo, reddito da grandi successi in Europa in cui ero considerato importante, però mi guardavo in giro e dico adesso devo fare i film americani e sono capace di fare i film americani e che faccio qui in America? E beh, mi cerco in giro, non trovo niente di interessante, poi chiamo Peter Mas. Peter Mas era l'autore di Wallace Papers, un film che avevo già fatto, Mezzo in America e mezzo in Italia, capite? Andiamo a cena insieme. Ti chiedo un film in America, c'hai qualche idea? Sì, io sto scrivendo un nuovo romanzo, si chiama Serpico. Che cos'è Serpico? Lui mi spiegò il personaggio di Serpico e a me mi intrigò subito. Dico, mi interessa, fammelo leggere, ma io non l'ho ancora scritto, c'ho solo il primo capitolo che parla del personaggio, fammi leggere il primo capitolo. Chiamai Peter Mas e disse, compro il romanzo alla cieca. Ci mai voglio $500,000. $500,000 allora sono 5 milioni di oggi. Bill. E comprai al buio questo romanzo e feci un grande film. Ehi tu, ehi chi? Tu, fuori la roba che tiri in tasca. Non ci pensare nemmeno. Sei in arresto e fai quello che ti dico io. E avevo la fortuna off Broadway di trovare un attore come Pacino che somigliava a Serpico, tra il quale, bravissimo. Io non mi dimenticherò mai quando lui lesse soltanto un capitolo di Serpico che gli aveva mandato l'autore a leggere in bozze. Da lì nacque Serpico e da lì nacque poi il successo dei film americani. Lo sbarco in terra americana è subito un successo per De Laurentiis. Nel primo periodo produce 3 grandissimi film, Serpico, I giorni del Condor e Il giustiziere della notte, un trionfo internazionale. E questo mi convinse che potevo fare il produttore in America. In Italia c'è la carta bollata, lei deve chiedere permesso anche di andare al gabinetto. Qui in America lei è libero di fare quello che vuole. L'America è nella realtà l'impossible dream che come true, cioè lì il sogno impossibile che può diventare realtà. Nel 1976 De Laurentiis produce King Kong e un salto commerciale nel mondo dei grandi colossal. Dopo un primo tentativo con Fellini, la regia viene affidata a John Guillermin. A firmare gli effetti speciali è un italiano, Carlo Rambaldi. Quando io acquistai i diritti di King Kong, allora per divertirmi chiamai Fellini. E Fellini, King Kong, ah! Sì, lo faccio subito. Poi cambiò idea, ovviamente, e non lo fece. Lei si immagina un King Kong fatto da Fellini? Dino aveva in programma questo film, mi disse: Carlo, puoi venire per solo una settimana o due, perché non sono molto sicuro di farlo. E invece finalmente dopo due settimane si risolse il problema e io sono rimasto un anno per fare tutto il film. Hanno capito gli americani gli effetti speciali come si fanno da quel film lì, King Kong, che l'ha fatto un italiano che stava in Italia e che è andato là a fargli quello scimmione là, tutti quegli effetti lì. Continui successi nel mondo cinematografico, ma anche un grandissimo dramma nella vita di De Laurentiis. Nel 1981 Federico, il suo primogenito, muore in un incidente aereo. Dopo la morte di mio fratello Federico nell'81, mamma non si è mai veramente ripresa. E Dune fu il primo film che fece. Da quel momento in poi il nostro rapporto sì, un po' alla volta si dissolse. Si dissolse a punto tale che decidemmo di separarci e di divorziare. Invece di consolarsi a vicenda, è come se si ricordava, ogni volta che si vedevano si ricordavano a vicenda di questo impossibile dolore. L'inizio Dino proprio ha perso la testa completamente. Per la prima volta in vita sua ha lasciato il lavoro. Quindi essere insieme era molto difficile per loro. Che ne hanno tutte e due trovato un modo diverso per sopravvivere. Ho capito che per lui era stato il più grande dolore della sua vita. Perdere il primogenito maschio per uno come Dino. Invece Silvana è proprio, si è ripiegata completamente su se stessa. Non si è mai più, non è mai più stata veramente se stessa. Ma Dino ha il carattere per reagire. Dopo un periodo di pausa lavorativa torna nella sua casa di produzione e inizia una nuova avventura. Nel 1984 produce Dune, diretto da David Lynch, film che dedica al figlio. E poi arriva Conan il Barbaro, il protagonista è Arnold Schwarzenegger. When you wanted to get into the movie business. Se volevi farcela a Hollywood, se volevi diventare una star internazionale, che è quello che volevo io, dovevi lavorare con Dino De Laurentiis. You had to work with Dino De Laurentiis. Tutti sapevano che non era un produttore qualsiasi, ma un grande produttore. Sono stato molto fortunato. Dino volle farmi un provino per il film Flash Gordon. Iniziamo a parlare, io fui subito impressionato dall'enorme scrivania che aveva, dietro la quale lui sembrava molto piccolo. Non era nessuno, non sapeva recitare, non sapeva neanche parlare, tanto vero che pensavamo di doppiarlo, ma in America non esiste il problema di doppiarlo. Però Schwarzenegger era talmente intelligente che un po' alla volta migliorava ogni giorno. After three days of shooting, mi ricordo che dopo tre giorni di riprese Dino venne a guardare i giornalieri, cioè le riprese di quel giorno. Una volta sul set mi disse cosa ne pensava. Salì le scale, stavamo girando su un posto in alto, con passo velocissimo. E mi disse: io gli dissi: buongiorno, signor De Laurentiis, come sta? E lui mi rispose: tu sei Conan. You are Conan. E se ne andò via. And so John Milius venne da me e mi disse: ti rendi conto? Ti ha chiamato Conan. È il più grande complimento che possa farti. Eravamo tutti molto eccitati dal fatto che lui mi avesse detto: tu sei Conan. Ha preso un ragazzo come me, con un forte accento austriaco, che faceva il bodybuilder, e ha detto: non mi importa, ciò che mi importa è che lui abbia talento. Vedo in lui del talento, vedo del potenziale, per cui voglio dargli una possibilità e fare in modo di renderlo una star. È una fortuna che esistano persone come Dino De Laurentiis. Se non ci fosse stato lui, probabilmente io non ce l'avrei mai fatta. La rinascita professionale dopo il grande dolore per la morte del figlio Federico si accompagna anche a una nuova giovinezza per De Laurentiis, che a 70 anni riscopre l'amore. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Dopo la separazione con Silvana Mangano, De Laurentiis a 70 anni decide ancora una volta di rimettersi in gioco. Questa volta non come produttore, ma come uomo. Conosce Marta Schumacher, che dal 90 diventa sua moglie. Ci siamo conosciuti a New York sul film di Ragtime. Io lavoro sempre con la porta aperta negli uffici, e qui non ci sono segreti mai, i muri parlano, quindi tengo sempre la porta aperta. E un giorno vedo passare un angelo. Era sempre una ragazza bellissima. C'aveva un cappotto, cappello, un sigaro, sigarette a quell'epoca, però c'aveva questa potenza, questa cosa, e poi ho visto, wow, quello è Dino De Laurentiis. Lui l'ha chiamata sempre più spesso, sempre senza farle la corte, poi è sparito perché c'è stata questa disgrazia e lui per mesi non si è fatto vedere. Quando lui è tornato, mi ha chiesto di venire in ufficio. Lui parlava con me sinceramente che per lui io era il suo sole. E da lui cominciò il corteggiamento. E abbiamo cominciato lui ha cominciato il suo violino. Insieme a Marta inizia dunque un nuovo periodo per De Laurentiis, che ancora una volta dimostra il suo infallibile fiuto come produttore. È il primo a capire la potenzialità di un personaggio come Hannibal Lecter. Nel 2001 produce Hannibal con la regia di Ridley Scott, e l'anno successivo la volta di Red Dragon, diretto da Brett Ratner. Sentiamo la moglie Marta, lo stesso Dino e il regista Ratner. Abbiamo fatto Hannibal nell'anno 2000 con Tony Hopkins e Ridley Scott, è un grande cast, c'è Carlo Giannini, certo. Lei è un Pazzi della famiglia Pazzi, immagino. Un suo antenato non fu impiccato a Palazzo Vecchio? Francesco De Pazzi. Sì, gettato da una finestra, nudo e con un capo attorno al collo. Abbiamo preso questi 4 mesi in Italia, perché abbiamo girato, preparato un gran parte in Italia. Per lui andare indietro lì con un progetto così importante come Hannibal è stato proprio... Questo ha dato lui un grande anche rejuvenation. C'è stato determinante il successo dei film di Hannibal, perché ne ha fatto una grande interpretazione. E poi abbiamo rifatto Red Dragon con Brett Ratner, che ha avuto un grande successo. Dino ha davvero molto fiuto per i grandi personaggi, per quelli davvero grandi. Il suo istinto è davvero infallibile. E lui sa riconoscere i grandi personaggi, ma anche i grandi attori. Spesso ci si domanda qual è la differenza tra un produttore e un regista. Ecco, quando si pensa a Dino, la differenza è veramente minima. Ecco, la migliore scuola di cinema del mondo sarebbe quella in cui un ragazzo giovane potesse stare accanto a Dino De Laurentiis e imparare da lui. Quello sì che sarebbe un grande insegnamento, apprendere la sua etica lavorativa incredibile. Christian De Sica, attore, showman, qual è il film prodotto da Dino De Laurentiis che lei preferisce? L'oro di Napoli in assoluto. Perché? Beh, per l'oro di Napoli è perché è un affresco meraviglioso non solo di Napoli ma anche dell'Italia di quel periodo. Ci fu una diatriba allora perché c'era un episodio molto triste che era il funeralino di un bambino a Napoli che Dino De Laurentiis voleva togliere e tolse con mio padre che andò su tutte le furie. Poi dopo anni papà lo convinse a rimetterlo e siccome la stampa mondiale disse che forse era uno dei quarto d'ora più belli del cinema italiano, allora capì Dino che aveva sbagliato e detto che ho sbagliato, avevi ragione te, forse mi avevi fatto un regalo, io non me ne ero accorto. Lei lo ha conosciuto Dino De Laurentiis? Sì, l'ho conosciuto perché io poi quando ero ragazzino ero pure fidanzatino per modo di dire di sua figlia Raffaella e allora andavamo a scuola insieme a Roma e poi ci frequentavamo. Cosa lo colpiva di più di lui? Beh, lui era un vulcano, io ancora me lo ricordo gli ultimi anni a Carpi, a Los Angeles, a casa sua, andai a passare una Pasqua a casa di Dino, era come in questa villa che poi era stata di Gloria Swanson, era un basso napoletano ma nel senso buono della parola, c'era di tutto, mi ricordo che addirittura lui benediva il tavolo dove noi mangiavamo, con l'acqua benedetta, faceva il segno della croce e poi, era fantastico, lui aveva l'ufficio che era stato di Alfred Hitch, però quando entravi dentro il suo ufficio ci trovavi la sedia da barbiere, il barbiere napoletano, il cameriere che faceva i friarielli e cuciva il caffè ed era incredibile perché era nato in miniatura dentro Hollywood e lui era così, era un veramente un vulcano. Vi ho raccontato la sua grandezza, tenacia, ma secondo lei, forse l'ha detto, perché è stato davvero unico? Perché uno che anche prima quando era socio con Carlo Ponti, era uno che riusciva a conquistare l'estero, gli americani, senza neanche parlare bene l'inglese, eppure riusciva a convincerli, tu pensa soltanto alla Bibbia di John Huston, quello che riesce a fare un produttore italiano, mettersi in competizione con le major americane, quindi aveva una... Ma sì, quando era ragazzo, lui subito alla fine della guerra, anzi durante la guerra, lui riusciva a prendeva le bottigliette dell'acqua tonica americana, le svuotava, le riempiva con l'acqua del rubinetto, con l'acqua del mare e poi ci metteva sopra un'etichetta Blue Grotto Water, l'acqua della grotta azzurra, e le vendeva ai Marines americani, che questi cazzoni si sembravano. Sì, episodio storico, sì, episodio. Giovedì esce nelle sale La scuola più bella del mondo, dove lei recita con Rocco Papaleo e Anna Finocchiaro. Com'è stato lavorare con Luca Miniero, regista di Benvenuti al Sud? È stato tanto, mi ha dato la bella possibilità di fare un film che non era una farsa, ma che per carità di Dio non rinnego i cineproiettori perché mi ha dato tanta gioia e tanta amore da parte del pubblico. Però Luca mi ha fatto fare un personaggio con un tono che non avevo mai interpretato, un attore diverso, no? Un film comico. Che tono ha in questo personaggio? Perché è anche sentimentale, è anche un personaggio tenero, non è cinico. Io di solito sto sempre in giro, interpreto sempre dei mascalzoni, dei misogini, dei parolacciai, dei maschilisti. Questo invece sì, è un preside un po' rompiscatole, competitivo, è arido, ma poi piano piano cambia e si vede invece che maestri, professori e presidi, quelli che hanno a che fare con i bambini, con i ragazzi, secondo me sono degli angeli di seconda classe. Quelli di prima classe sono i cherubini e i serafini, quelli di seconda classe sono i maestri di scuola. Cosa manca oggi al cinema italiano? L'ottimismo. L'ottimismo che si è perso, perché insomma le cose vanno come vanno, però ecco, La scuola più bella del mondo, se c'è un vantaggio, è che sembra un film degli anni 60 nel buon senso della parola, si è pieno di ottimismo e ce ne vuole, perché gli ultimi film che abbiamo fatto sono sempre aggressivi, sempre violenti, sempre neri un po'. Speranza, insomma. Sì, anche perché la scuola è una cosa, bisogna credere, bisognerebbe aumentare un po' le paghe ai professori e agli insegnanti, perché la scuola è il futuro del nostro paese, la scuola non è una sciocchezza. Grazie Christian De Sica. Grazie a voi. Mix 24.